L'Istituto Geografico di Agostini presenta L'inglese per te. Primo livello. First level. Unità 1. Unit 1. Ascoltare. Listening. L'inglese corretto. Ecco una serie di parole che si usano spesso anche in Italia. Le sentirete prima come vengono dette comunemente da noi, poi pronunciate correttamente dalla voce di un inglese. Spelling. Spelling. Miss. Miss. Mister. Mister. Star. Star. Boss. Boss. Bus. Bus. Goal. Goal. Design. Design. Film. Film. Manager. Manager. Computer. Computer. Gentleman. Gentleman. Hobby. Hobby. Garage. Garage. Meeting. Meeting. Show. Show. Avete notato le differenze? Ripetiamo ora il suono corretto dell'ultima parola. Show. Spettacolo. E confrontiamolo con Shaw, il nome del commediografo. La variazione è quasi impercettibile per noi, eppure le due parole si scrivono con due vocali diverse. È solo un piccolo esempio delle sorprese che ci riserva la pronuncia inglese. Riprendiamo il confronto tra la dizione all'italiana e la dizione corretta. Proveremo questa volta con alcune espressioni, anch'esse generalmente note. Qui la voce inglese, che segue quella italiana, vi farà ascoltare due intonazioni. Ok. Ok. Ok. No comment. No comment. No comment. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye. Goodbye. I love you. I love you. I love you. Riascoltate quest'ultima parte e soffermatevi in particolare sul raffronto tra la grafia e la pronuncia delle singole parole. Ascoltare. Listening. La R finale e le doppie. Un altro confronto tra la pronuncia italiana e quella inglese. Ci soffermeremo in particolare sul suono terminale della R, ripetendo chiaramente tre vocaboli che avete già sentito. Mister. Mister. Computer. Computer. Manager. Manager. Proviamo ancora con altre parole. Speaker. Speaker. Partner. Partner. Skipper. Skipper. Horror. Horror. La differenza più evidente è che in inglese si tende a far scomparire la R finale. Ma avete colto l'altra diversità nelle due parole con le consonanti doppie? Riascoltiamole, riprendendo anche altri esempi. Skipper. Skipper. Horror. Horror. Hobby. Hobby. Spelling. Spelling. No comment. No comment. Non vi è dubbio. In inglese tutte le consonanti doppie diventano singole. Ascoltate di nuovo attentamente il nastro dall'inizio e scrivete tutte le parole inglesi fin qui incontrate. Ascoltare. Listening. Gli articoli e il plurale. Ascolterete ora, soltanto dalla voce inglese, un'altra serie di parole abbastanza comuni. Sono tutte precedute dall'articolo determinativo the. The king. The girl. The boy. The iceberg. The airport. The office. Avrete forse notato che davanti alle parole che iniziano per vocale, il TH viene seguito da un suono simile alla nostra I. Riascoltiamo le stesse parole precedute dall'articolo indeterminativo. A king. A girl. A boy. A quiz. An iceberg. An airport. An office. Quindi le parole che iniziano per vocale, anche in questo caso, presentano una particolarità. Richiedono sempre l'articolo an, a differenza di quelle che iniziano per consonante, per le quali basta l'articolo e. Infine, passiamo al plurale. Sapete già che normalmente si ottiene aggiungendo una S alla forma singolare. La S finale deve sentirsi bene. Ascoltate. Detective, detectives. Cocktail, cocktails. Airport, airports. Ma ricordate che vi sono delle eccezioni? Ecco un esempio. Boss, bosses. Parlare. Speaking. Adesso tocca a voi. A questo punto comincerete voi stessi a parlare in inglese. Vi proponiamo parole ed espressioni che avete già ascoltato nella prima parte della cassetta. Le sentirete di nuovo in ordine diverso e nella pausa tra l'una e l'altra dovrete ripeterle ad alta voce. Film. Star. Show. Gentleman. Manager. Okay. Boss. No comment. Hobby. Girl. I love you. Iceberg. Detective. Club. Skipper. Goodbye. Provate ora a ripetere queste altre parole che udite per la prima volta nella corretta pronuncia. Market. Center. House. Discount. Ed ecco una serie di sostantivi preceduti dall'articolo indeterminativo. Ascoltate e ripetete. A film. A girl. A computer. An airport. Riproviamo con l'articolo determinativo e con i sostantivi al plurale. The films. The girls. The computers. The airports. È la prima volta che affrontate la pronuncia del TH. Non è poi così terribile. Ma non c'è solo il TH dell'articolo the. Confrontate nel suono con quello di thank you. Ascoltate e ripetete più volte. The. The. The. Thank you. Thank you. Thank you. Parlare. Speaking. I numeri cardinali da 1 a 10. Sentite questa registrazione. È il conto alla rovescia che precede il lancio di un missile dalla base di Cape Kennedy, negli Stati Uniti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have ignition. Ora ascoltate e ripetete i numeri da 10 a 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Riascoltate i numeri nell'ordine normale, da 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un altro modo di dire lo zero, soprattutto per dettare un numero di telefono, è il suono vocalico O. Ascoltate e ripetete questo esempio. 405-7601. Esiste poi un terzo modo di chiamare lo zero, usato prevalentemente in aritmetica. Naught. Ora, esercitatevi da soli contando ad alta voce i numeri pari da 2 a 10 e i dispari da 1 a 9. Ripassate questa parte della cassetta badando specialmente alla pronuncia del TH di 3. È facile sbagliare. Pronunciato all'italiana diventa 3, che vuol dire albero. Parlare. Speaking. Le espressioni più semplici. Ascoltate e ripetete due intonazioni del no e tre modi di pronunciare yes. No. Nah. Yes. Yeah. Yeah. Ora ascoltate e ripetete le prime forme di cortesia. Please. Thank you. Thanks. Yes, please. No, thank you. Excuse me. Alcuni esempi sull'uso del vorrei e sulla forma interrogativa più elementare. I'd like Pepsi or Coke? Coke, please. I'd like a Coke, please. Pepsi or Coke? Pepsi, please. I'd like a Pepsi, please. Ripetete più volte e provate a modificare la frase inserendo dei numeri. I'd like 4 Cokes, please. I'd like 2 Cokes, please. Conversazione. Conversation. Excuse me. Yes? I'd like a brochure. England or Scotland? Scotland, please. Here's a brochure. Thank you. Excuse me. Yes? I'd like a brochure. England or Scotland? Scotland, please. Here's a brochure. Thank you. Excuse me. Yes? I'd like a brochure. America or Canada? Canada, please. Here's a brochure. Thank you. Excuse me. Yes? I'd like a brochure. America or Canada? Canada, please. Here's a brochure. Thank you. I'd like a brochure, please. America? No, a brochure about Canada. Here's a brochure about America and Canada. Okay. Okay, thank you. I'd like a brochure, please. America? No, a brochure about Canada. Here's a brochure about America and Canada. Okay. Okay, thank you. Excuse me, I'd like a brochure about Wales. Here's one. Thanks. Excuse me, I'd like a brochure about Wales. Here's one. Thanks. Excuse me, I'd like a brochure about New Zealand. Okay, here's one. Thanks. Excuse me, I'd like a brochure about New Zealand. Okay, here's one. Thanks. Terminiamo l'unità 1 con due prove d'ascolto. Per poterle eseguire, aprite il fascicolo e leggete l'esercizio a pagina 19. La prima esercitazione è un piccolo dettato. Scrivete negli spazi contrassegnati da una linea le sei parole che ascolterete ora. Listening. Speaking. Conversation. Yacht. Cocktail. Single. Seguirà un breve dialogo, il cui testo nel fascicolo è scritto in modo incompleto. Ascoltate qui attentamente le frasi intere e riempite gli spazi vuoti con le parole che mancano. Excuse me? Yes? I'd like a brochure, please. England, Scotland or Wales? Wales, please. Here's one about England and Wales. Thank you. Si conclude qui l'unità 1. Unità 2. Unit 2. Ascoltare. Listening. I nomi delle città. Sentite come si pronunciano correttamente in inglese i nomi delle seguenti città. London. Edinburgh. Dublin. New York. Los Angeles. Washington. Chicago. San Francisco. Boston. Sydney. Toronto. Wellington. Paris. Brussels. Geneva. Antwerp. Athens. Vienna. Riascoltate ora gli stessi nomi detti da una voce americana. London, Edinburgh, Dublin, New York, Los Angeles, Washington, Chicago, San Francisco, Boston, Sydney, Toronto, Wellington, Paris, Brussels, Geneva, Antwerp, Athens, Vienna. Ascoltare. Listening. L'alfabeto e lo spelling. Ascolterete ora come si dicono le lettere dell'alfabeto in inglese quando vengono pronunciate singolarmente. Per esempio, per precisare lo spelling di un nome. Ecco l'alfabeto completo. A, B, C, D. E, F, G, H. I, J, K, L. M, N, O, P. Q, R, S, T. U, V, W, X, Y, Z. Quella che avete appena sentito, Z, è il nome britannico della lettera Z. Ascoltate ora invece la pronuncia americana. Z. Ascoltare. Listening. I numeri da 11 a 100. Ricordate i numeri da 1 a 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elenchiamo ora i numeri da 11 a 19. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Avrete notato che, fatta eccezione per 11, 11 e 12, 12, tutti gli altri hanno la desinenza uguale in T. 16. La N finale si sente distintamente. Infatti, si sente bene anche nella parola teenager. Passiamo alla sequenza delle decine, da 20 a 100. Attenzione soprattutto alla desinenza finale T, senza la N. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Su queste basi, adesso è facile capire i numeri fino a 99. Da 21 in avanti, basta aggiungere l'unità alla decina. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Parlare. Speaking. Le lettere dell'alfabeto. Ascoltate e ripetete nella pausa le cinque vocali. A, E, I, O, U. Ascoltate e ripetete queste altre cinque lettere. Sono poco usate nella lingua italiana, ma molto frequenti nell'inglese. J, K, W, X, Y. Ascoltate e ripetete questi gruppi di lettere. Noterete un suono comune ad ogni singolo gruppo. A, H, J, K. B, C, D, E, G, P, T, V. F, L, M, N, S, X, Z. I, Y. Q, U, W. O, R. Ora ascoltate e ripetete più volte l'intero alfabeto. A, B, C. D, E, F. G, H, I. J, K, L. M, N, O, P. Q, R. S, T, U. V, W, X, Y, Z. Mettiamo in pratica quanto si è appreso. Facciamo lo spelling di queste due città. Edinburgh. E, D, I, N, B, U, R, G, H. Washington. W, A, S, H, I, N, G, T, O, N. E ora due sigle. The United Kingdom. The UK. the United States of America, the USA. Parlare. Speaking. Contiamo fino a 100. Ascoltate e ripetete i numeri da 11 a 19. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ascoltate e ripetete le decine da 20 a 100. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E ora i numeri da 20 a 29. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Infine, una serie di numeri a cui dovete prestare particolare attenzione. 13, 30, 34, 43, 14, 40, 45, 54, 16, 60, 67, 76. Parlare. Speaking. Il vocabolario per volare. Ecco una serie di termini e di espressioni scelti fra quelli più comuni che si adoperano in aeroporto e sugli aerei di linea. I primi li incontrerete alla partenza. Ascoltate e ripetete. Airport. Information desk. Flight attendant. Check-in. Ticket. Baggage. Luggage. Smoking. Boarding pass. Departures. Time. Gate number. Now boarding. Aeroplane. Airplane. Passiamo ora ad un altro gruppo di termini più in uso a bordo. Passenger. Fasten seat belts. Pilot. Newspaper. Magazine. Drink. Tea. Coffee. Orange juice. Quindi le indicazioni che vi saranno utili all'arrivo. Arrivals. Passport control. Identity card. Baggage reclaim. Nothing to declare. Customs. Adesso ascoltate e ripetete queste frasi. My seat number is 23A. Your flight number is BA497. Avete appena sentito tre parole nuove. Gli aggettivi possessivi my, your e la terza persona singolare del verbo essere is. Ripetiamole. My, your, is. Ed ecco per intero il presente indicativo del verbo essere. To be. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Nell'inglese parlato, però, si usa più spesso la forma contratta. Ascoltate e ripetete queste frasi. I'm a flight attendant. You're a detective. He's a boss. She's an air hostess. It's a ticket. We're passengers. You're managers. They're pilots.